Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. In Sargante, eccoci qui, il traghettatore Ferry Boat questa settimana fa un viaggio un po' inquietante, nelle premesse soprattutto. Speriamo che lo sia sempre meno poi nelle conseguenze, perché questo viaggio ci porta al sud, nelle terre contrastate di questo contrastato paese. In particolare andiamo in Sicilia. Ascoltate la scheda. Giugno 2008. La direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta mette sotto sequestro la Calcestruzzi S.p.A., filiale di Italcementi Group. I responsabili della filiale sono accusati di associazione mafiosa e di aver fornito calcestruzzo di qualità inferiore a quello previsto nei capitolati di appalto. I vertici di Italcementi Group, individuate alcune irregolarità nella gestione dell'impresa, avevano deciso di sospendere l'attività della controllata in Sicilia già nel dicembre 2007. Non solo. Per ribadire la propria linea di rifiuto di qualsivoglia contiguità o compiacenza con fenomeni di criminalità organizzata, i dirigenti di Italcementi passano al contrattacco e annunciano la nascita di un pool per studiare azioni di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. Il pool è coordinato da Pierluigi Vigna, già procuratore nazionale antimafia. Nuove regole e procedure da adottare, che vanno oltre il protocollo di legalità standard e che puntano su una vera e propria tracciabilità dell'attività di Italcementi in Calabria nei lavori per l'autostrada. Mi tocca spiegare a chi ci ascolta il collegamento fra questa scheda e l'economia sociale di cui Ferry Boat si è fatta carico. In realtà un'azienda, ancor più delle dimensioni e dell'importanza di Italcementi, come molte altre che lavorano in territori critici ai confini della legalità, quindi laddove ci sono le associazioni mafiose che controllano il mercato, ecco, laddove questo avviene, la responsabilità sociale dell'impresa oggi è diventata anche quella di garantire o di tentare di proporre modelli che consentano di limitare i danni sul territorio e su chi lavora e anche sull'azienda. Quindi la lotta alla mafia è una delle azioni di responsabilità sociale da questo punto di vista, e mai come nel caso di Italcementi Group questo si è verificato, come avete sentito, ed è stata un passaggio importante per l'azienda. Ne parliamo con Agostino Nuzzolo, che è il direttore affari legali e fiscali di Italcementi. Stiamo parlando di un'azienda di 6 miliardi di fatturato e più di 20.000 dipendenti nel mondo. Avvocato, questa esperienza che abbiamo raccontato, tanto spero che lei si riconosca in questa scheda, ha sicuramente cambiato le regole del gioco. Sì, grazie. Prima di tutto volevo ringraziare per l'opportunità e salutare tutti gli ascoltatori. No, sicuramente la scheda sintetizza chiaramente una vicenda molto più complessa, ma sicuramente è rappresentativa della vicenda, che per noi ha rappresentato un momento di riflessione e di tentativo di individuare degli strumenti nuovi che ci potessero portare ad agire in territori, come ha detto lei, sicuramente contrastati, dove esiste un rischio criminale evidente che è nella storia di quei territori, di affrontare quindi l'attività di impresa in questi territori in modo innovativo. Ecco, diciamo, sempre per spiegarci con la maggiore chiarezza possibile, le aziende che operano in Sicilia, in Calabria, in Campania, in parte anche nelle Puglie, spesso si trovano di fronte a situazioni non chiare di subappalto, di relazioni con altri mondi di impresa che per esempio potrebbero poi rivelarsi dal punto di vista dell'infiltrazione mafiosa dei veri e propri, delle vere e proprie finestre sul controllo mafioso. In questo caso è nato questa iniziativa di protocollo della legalità, che noi abbiamo definito standard nella scheda, e che serve a garantire, almeno formalmente, che le aziende a cui viene delegato il lavoro non sono mafiose. Ma questo, appunto, la parola formalmente non sempre è adeguata ai contenuti e alla sostanza. Invece voi, avvocato Nuzzolo, in Calabria, proprio nei lavori per l'autostrada, avete avviato un processo più complesso, più articolato, ma anche più garantista. Corretto. il punto di partenza, come diceva lei, è che non è facile distinguere all'interno del magma di clienti e fornitori con i quali si entra in contatto in quei territori cosa è buono e cosa è cattivo. Purtroppo non c'è una targhetta, non c'è un riferimento. Quindi l'obiettivo di questo protocollo era quello di, prima ancora del codice antimafia che ha coordinato Pierluigi Vigna con altri professori universitari, era quello di conoscere, di tracciare le informazioni e di conoscere i clienti e i fornitori. E dico la verità, l'obiettivo non era solo, forniamo sicuramente anche l'ordine d'autostrada, ma era quello di colpire, di mettere sotto controllo un po' tutta l'attività di impresa, anche su clienti diversi da quello, da quelli relativi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria, per cui l'obiettivo che ci siamo posti è quello di conoscere meglio i clienti e i fornitori, e per farlo abbiamo ritenuto che l'unico modo era quello di aprirci ad una collaborazione, uno scambio di informazioni con le autorità di governo, prima di tutte la prefettura, che è quella che ha il compito di garantire la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico sul territorio e di coordinare le varie iniziative. Da qui è nata l'iniziativa del protocollo. Quindi voi comunicate alla prefettura, in questo caso di Reggio Calabria, costantemente comunicate nome, cognome, indirizzo, perché no, anche fatturati e altre caratteristiche delle aziende a cui delegate parte della vostra attività, e lo fate costantemente nel tempo. Dopo aspettate che la prefettura eventualmente segnali delle irregolarità. Funziona così? Sì, l'obiettivo è quello di trasferire dati su sia il fronte clienti che quello fornitori alla prefettura. Lo facciamo su una base ormai di scambio informatico, quindi siamo avvantaggiati dalle nuove tecnologie, lo possiamo fare in maniera automatica, con una periodicità cadenzata nel tempo, e siamo a disposizione delle prefetture per sviluppare qualunque informazione che può essere utile per la loro attività investigativa. In realtà non ci attendiamo proprio un riscontro formale, perché lei può immaginare che se ne scaturisce un'attività investigativa è giusto che l'impresa non ne sia a conoscenza e che l'indagine si sviluppi nel rispetto del segreto istruttorio. Tuttavia una possibile collaborazione a queste attività, l'aiutare nel fornire informazioni, nel prevenire quindi eventuali tentativi di infiltrazione, riteniamo sia molto utile. Grazie Avvocato Nuzzolo per la chiarezza e grazie anche per l'attività che state facendo, speriamo che sia contagiosa per una volta in maniera positiva sulle altre aziende. Quella di cui abbiamo parlato possiamo definirla tracciabilità, per usare un termine molto in uso, quindi l'attività di tracciamenti è tracciabile nel corso dell'anno nell'attività in quella regione. Ivan Lobello, presidente di Confindustria Sicilia, e omettiamo le altre cariche, non basterebbe la trasmissione. Intanto salve. Salve. Sono tante le cose che lei fa. La prima, quella che l'ha fatta diventare un'icona della lotta alla mafia, è il codice etico di Confindustria Sicilia, che stabilisce semplicemente che è fuori dall'associazione chi paga il pizzo. Questo è sicuramente un punto di partenza. L'esperienza dei tracciamenti, il protocollo di legalità sono una tappa evolutiva di questo primo passo importante etico che lei ha proposto. Sì, mi dà un minuto per chiarire, chiarire tutto. Ecco, il nostro codice etico si rivolge ai nostri colleghi che hanno pagato o pagano il pizzo e che rifiutano di denunciare i loro estortori. Cioè, nel senso che ai nostri colleghi diamo sempre una chance di ribaltare la loro posizione, denunciare gli estortori e quindi concorrere, voglio dire, a una lotta di indebolimento alla mafia. E questo è l'aspetto più interessante, perché gran parte degli imprenditori che sono stati in qualche modo di cui si è verificato il pagamento del pizzo, in stragrande maggioranza hanno poi denunciato, e questo è il successo vero. Ma non si limita ovviamente a chi paga il pizzo, ma a chi in qualche modo ha comportamenti collusivi con la mafia, anche comportamenti che non concretano una precisa e diretta responsabilità penale. Si può essere collusi con la mafia senza essere concorrenti nel reato mafioso, favoreggiatori della mafia. Anzi, quella zona grigia di collusioni non penalmente rilevanti è l'aspetto più grave della patologia mafiosa. Quello più difficile anche da intercettare, immagino. Sì, no, è un'area. Le faccio un esempio. La mafia ha un suo ruolo importante nella regolazione di alcuni mercati. Molto spesso questi mercati vengono regolati dalla mafia, non con violenza o minaccia, ma per il semplice fatto che la mafia esiste su quel mercato e quindi l'imprenditore si adatta alla regolazione mafiosa. In questo caso è difficile individuare una responsabilità penale dell'imprenditore, ma non c'è dubbio che vi è un comportamento che in qualche modo rafforza la mafia, perché la legittima come soggetto regolatore. Ecco, in questi casi noi riteniamo che l'imprenditore sia sostanzialmente colluso con la mafia e quindi porti un comportamento lesivo di valori importanti, competizione, concorrenza, mercato, regole, e quindi diventa incompatibile con il nostro sistema. Ecco, questo è il quadro generale in cui noi qualche anno fa abbiamo costruito il nostro codice etico e creato, credo, un'innovazione anche importante nel nostro sistema confindustriale. Questo protocollo di legalità, secondo lei, è uno strumento efficace, che può diventare efficace? Guardi, i protocolli di legalità ce ne sono tantissimi, alcuni che si sono fermati su un piano formale, altri che entrano nella vita vera dell'azienda. tutti i temi che riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari e delle attività economiche sono protocolli importanti, perché consentono, insomma, alle forze dell'ordine di verificare in tempo reale l'attività dell'azienda e i possibili tentativi di infiltrazione o di anomalie. Quindi questi mi sembrano protocolli molto seri che vanno implementati ancora di più. Abbiamo letto e sentito che il protocollo di legalità potrebbe avere, diciamo, una soglia di inefficienza nel momento in cui propone la struttura societaria dell'azienda, che spesso magari può essere rappresentata bene, ma avere dietro questi rappresentanti dei giriloschi. Quindi il protocollo che potrebbe essere un po' troppo, che si ferma in superficie? Ma guardi, il protocollo ovviamente si basa su una collaborazione tra impresa e Stato, cioè prefettura e forze dell'ordine. Quindi, diciamo così, il protocollo può avere dei limiti intrinseci sotto questo profilo. Vede, sa cos'è importante nelle regioni del Mezzogiorno? Affiancare all'azione dello Stato, ai protocolli che stabiliscono collaborazione tra imprese e Stato, una forma di controllo sociale. Le dico subito una cosa, insomma, che può sembrare banale, ma non lo è. Guardi che se lei va in un territorio, le persone che vivono in quel territorio sanno quali sono le imprese mafiose legate alle mafie. Purtroppo spesso questa consapevolezza diffusa è nascosta dietro un silenzio complessivo delle società meridionali. Cioè si sa chi è il mafioso, si sa chi è il prestanome del mafioso, ma non si parla di questo. E quello che stiamo cercando di fare noi oggi è convincere, insomma, i nostri imprenditori a ribellarsi alla regolazione mafiosa e a esercitare una forma di controllo sociale, perché un'impresa mafiosa è un'impresa che, come le dicevo prima, genera un meccanismo di distorsione profondo sul mercato, crea mercati protetti. Nei mercati protetti le aziende godono di extra profitti, non hanno bisogno di investire né di innovare, e investimento e innovazione sono i fattori della crescita di un territorio, crescita economica, sociale e civile. Allora dobbiamo aumentare la nostra soglia di intolleranza nei confronti di questi fenomeni, esercitare un forte controllo sociale, e siccome questo comincia ad avvenire nel nostro territorio è un elemento sicuramente positivo. Cioè non è risolutiva l'azione dello Stato, è fondamentale per creare fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, ma poi i cittadini e le imprese devono fare la loro parte, e la loro parte è controllare le dinamiche sociali e denunciare o segnalare quei comportamenti anomali, collusivi, che in qualche modo in molte aree rappresentano un elemento rilevante della presenza mafiosa. Ascoltate adesso questo spot a proposito di cultura e di controllo sociale. Meglio una pizza che il pizzo. Meglio farsi crescere il pizzo che pagare il pizzo. Chi chiede il pizzo vigliaccamente non si merita il rispetto della gente. Chiedere il pizzo non è un mestiere. Meglio lavorare onestamente in un cantiere. Chiedere il pizzo fa male alla società e non è segno di civiltà. Pazzo chi paga il pizzo. Chi paga il pizzo prima o poi finisce nel pozzo. Pazza l'idea di pagare il pizzo a te. Campagna di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado. Premio Libero Grassi 2008. Progetto istituzioni e società civile contro racket e usura a valere sul POR 2000-2006. Ne parleremo più avanti, spiegheremo meglio perché questo spot, ma l'avete intuito, avete sentito nominare Libero Grassi, commerciante, a proposito di icone che ha pagato con la propria vita il rifiuto a piegarsi alla mafia. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ferry Boat. In questa puntata ospita a bordo Ivan Lobello, presidente di Confindustria Sicilia, con cui abbiamo un po' ripercorso le tappe della sua piccola grande rivoluzione in seno al sistema imprenditoriale siciliano. E a proposito di questo, il presidente Lobello ricordava che il problema non è, sì, va bene il protocollo di legalità, va bene le forze dell'ordine, va bene tutto, ma che ovviamente è il sistema economico e quindi sociale che è la più grande arma contro il sistema malavitoso. Per questo ci vogliono investimenti e innovazioni. Allora la domanda che rivolgiamo è: della Sicilia si parla forse per la prima volta dopo tantissimo tempo, e sono un siciliano quindi ne ho contezza, di un grande momento che potrebbe vivere di rinascita grazie alla produzione di energie rinnovabili, di cui già Catania con Enel, Sharp, ST Microelectronics si intravede qualcosa. Questa è una grande chance? È veramente così? Sì, è una grande chance a due condizioni. La prima condizione è che l'apparato pubblico passi dalla retorica sul futuro delle energie rinnovabili, diciamo così, a procedure amministrative serie, rapidi, trasparenti, nelle quali si abbia il coraggio di dire no a impianti che in qualche modo contrastano con l'ambiente, ma subito sì ad impianti che sono assolutamente compatibili con l'ambiente. Questa è una precondizione importante. La seconda precondizione è che l'amministrazione pubblica sia in grado, ma lo siano in grado anche gli imprenditori, di prevenire quei fenomeni di infiltrazione mafiosa che si sono verificate in alcuni campi, penso insomma ad alcune indagini sull'eolico nella zona del Trapanese o dell'Agrigentino, che hanno evidenziato infiltrazioni della mafia e rapporti insomma con operatori del settore. Con queste due condizioni ovviamente il settore delle rinnovabili, penso al fotovoltaico fra tutti, ha in Sicilia una vocazione naturale. Il raggiamento da noi è il più forte a livello nazionale e a livello europeo. Si stanno realizzando importanti investimenti nella produzione e nella ricerca sul settore, penso all'investimento dell'Enel, Sharp, dell'ST, Microelectronics a Catania. È evidente insomma che tutto questo può creare un'industria importante sul nostro territorio. Pensiamo a cosa hanno fatto i tedeschi in alcuni anni, dove hanno costruito un'industria delle rinnovabili che oggi ha una leadership europea importante, che ha creato posti di lavoro in misura tale da superare anche molti dei tradizionali settori manifatturieri industriali. Ecco, tutte queste potenzialità esistono sul nostro territorio, molti imprenditori ne sono pienamente consapevoli, credo che la politica oggi, da cui dipende la regolazione di questo mercato e le regole con cui questo mercato va sviluppato, debba fare un passo in avanti, superare un blocco astorico delle autorizzazioni e costruire le basi per un'industria, ripeto, che oggi in Sicilia può dare grandi soddisfazioni non solo per chi andrà a realizzare e gestire gli impianti, ma anche per chi si collocherà a monte di questo processo, ripeto, nella produzione di pannelli fotovoltaici e in grandi progetti di ricerca che, ripeto, oggi sono simbolizzati dal progetto Enel, Sharp, ST Microelectronics, ma che vedono tantissimi piccoli imprenditori che oggi stanno scommettendo su questo. Ecco, e questo è tutto sommato nel nostro piccolo Conferribotto, non facciamo altro che raccontare storie di imprese che sono, come dire, più avanti degli enti pubblici, sono più capaci della politica, diciamola tutta, di attivare dei meccanismi virtuosi per lo sviluppo del territorio e quindi del lavoro. A questo proposito voglio citare una sua frase: l'onnipotenza della politica è l'altro mito da sfatare insieme a quello della spesa pubblica. Entrambi hanno inquinato la Sicilia e il Mezzogiorno. Visto che siamo in par condicio a poche ore dal voto, non le chiedo di specificare niente di più e niente di meglio, ma certo lei come politico sarebbe stato ed è ancora oggi molto ambito da tutti, però questa scelta lei non l'ha fatta, e un po' in questa frase c'è la risposta del perché non l'ha fatta. Sì, perché vede, lo dico con grande rispetto per la politica, insomma la politica ha una funzione altissima e indispensabile per qualsiasi società, ho grande rispetto per la politica e i politici. Il problema del Mezzogiorno è stato però quello di avere, diciamo così, una politica che è stata allo stesso tempo strumento di occupazione della società, ha deresponsabilizzato la società ed è diventato un mito onnipotente per cui qualsiasi percorso di mobilità sociale passava attraverso una carriera politica. Questo ha creato patologie, nel senso che le società sono forti se c'è una buona politica e una buona società civile, un'economia buona, forte, capace di controllo sociale. Ecco, io credo insomma che il ruolo che stiamo svolgendo come pezzo della società meridionale e siciliana sia un ruolo importantissimo in questa fase, perché determina un meccanismo di innovazione della nostra struttura politica e sociale. Da un lato una politica che deve in qualche modo delineare alcune strategie, e una società che ha responsabilità proprie e che deve in qualche modo vivere in maniera autonoma dalla politica. Una società che dipende dalla politica è una società che costruisce anche una cattiva politica. Proprio per questo noi non abbiamo nessuna intenzione di fare politica, abbiamo rifiutato, diciamo così, delle proposte e continueremo a farlo, perché la grande scommessa del Mezzogiorno è avere una società autonoma, indipendente, forte, capace di un serio controllo sociale. Presidente, grazie, buon lavoro. Noi continuiamo col nostro viaggio, in qualche modo rimaniamo in Sicilia, anche se l'iniziativa ha delle ambizioni un po' più ampie. Avete ascoltato il, non si può certo definire simpatico visto la tragicità del tema, ascoltato lo spot sulla pizza, sul pizzo e sul pozzo. Adesso ve ne facciamo ascoltare un altro prima di proporvi il nostro nuovo ospite. Giornale Radio della Sicilia. GR Sicilia del 28 agosto 1991. L'imprenditore tessile palermitano Libero Grassi Rossi è stato barbaramente ucciso. Aveva detto di no ai suoi taglieggiatori. Agosto 2007, brucia l'azienda di Guayana. Gli esperti accertano l'origine dolosa dell'incendio. Il titolare non aveva voluto cedere alla richiesta di pagare il pizzo. Dicembre 2008, inattivo il bilancio delle attività produttive siciliane. Ottimismo tra gli imprenditori locali. In Sicilia si affermano nuove realtà economiche, si creano economie, si creano nuovi posti di lavoro e arrivano nuovi investimenti. In Sicilia la musica è cambiata. Campagna di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, premio Libero Grassi 2008. Progetto istituzioni e società civile contro racket e usura a valere sul POR 2000-2006. Quello che è straordinario è che questo spot che avete sentito, ma anche il precedente, come moltissimi altri, sono frutto non dello studio di creativi superpagati, ma di giovani, anzi di ragazzi, per non dire addirittura bambini, delle scuole. Questo grazie all'iniziativa di Solidaria Onlus di Salvatore Cernigliaro, che è al telefono con noi. Salve. Salve. Ideatore del premio Libero Grassi, il commerciante palermitano ucciso perché non voleva pagare il pizzo, e Salvatore Cernigliaro da qualche tempo, credo, adesso se lo spiegherà lui, da qualche edizione, 3 anni mi pare, vero? Siamo alla sesta edizione. Sesta edizione, quindi molti anni, si è messa in testa di coinvolgere i ragazzi di tutta Italia, perché il punto poi secondo me è questo rispetto a quello che ci siamo detti con il presidente Ivan Lobello. Sì, è un fenomeno siciliano del sud, ma il sistema mafioso ha tanti e tanti modi di interpretare il proprio potere anche al nord. Non c'è dubbio su questo, credo anzi che gli ultimi eventi ci lasciano molto preoccupati rispetto all'avanzare delle mafie anche verso altri territori, quindi sicuramente è importante lì dove possiamo fare prevenzione, così come stiamo anche tentando di fare appunto in qualche modo rivolgendoci alle giovani generazioni con il nostro... Come funziona questo premio, Cernigliaro? Ma guarda, anzi, il premio nasce da un'idea ben precisa, cioè quella di imitare in qualche modo l'esempio di Libero Grassi. Libero Grassi è stato un grande comunicatore e un costruttore di coscienze. Noi attraverso il premio proponiamo alle giovani generazioni, quindi ai ragazzi di ogni ordine, delle scuole di ogni ordine e grado, di fare comunicazione responsabile. Ogni anno cambiano i temi, ogni anno il concorso cambia un po' le sue regole, proprio perché non vogliamo sempre ripetere il concorso con gli stessi criteri. E appunto quest'anno abbiamo per esempio chiamato i ragazzi a realizzare una delle sceneggiature sul tema della corruzione, che come penso condividerai si tratta di un tema assolutamente scottante all'ordine del giorno della politica nazionale, ma li abbiamo già coinvolti in altri temi come appunto il racket, come l'usura, come il problema delle morti bianche ed altri temi che ovviamente i ragazzi hanno saputo affrontare in maniera straordinaria. L'ultimo vincitore è quello del 2009, ricorda qual è stata la classe che ha vinto il premio Libero Grassi? Guarda, noi abbiamo avuto l'anno scorso tre temi abbiamo lanciato. L'anno scorso abbiamo parlato delle morti bianche e ha vinto una scuola qui della provincia di Palermo, esattamente di Angi. Poi una scuola di Benevento ha fatto un bellissimo spot sul tema della tutela dell'ambiente. E invece l'ultimo tema, che era quello della lotta contro tutte le mafie, è stato realizzato da una scuola in provincia di Milano. Grazie Salvatore Cernigliaro, in bocca al lupo per il premio Libero Grassi. Speriamo che abbia una diffusione sempre maggiore, perché in realtà la verità è che la lotta alla mafia, camorra, 'ndrangheta, come si vuol definire, è una lotta della società per la legalità, ed è giusto che siano proprio i bambini, i ragazzi, gli studenti che si appropriano o si riappropriano di questa cultura della legalità, di cui forse c'è un grande bisogno. Grazie per aver viaggiato con noi, saluti da Insargante e un grazie in redazione ad Anita Panizza e in regia a Carmelo Lauricella. Vi ricordo che la trasmissione si può riascoltare come tutte le altre sul sito www.radio24.it. A presto.